le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il piano sull'immigrazione europeo viene diffuso in questi minuti, riguarderà solo i profughi arrivati dopo il 15 di aprile. Lo scandalo corruzione scuote la FIFA, raffica di arresti nel comitato esecutivo del governo del calcio mondiale. Blatter indagato e dice non sono tenuto a lasciare l'incarico. I dati dell'OCSE sull'occupazione giovanile, Italia penultima, i giovani che non studiano né lavorano sono più di un quarto degli under 30. Caos sulle liste per le elezioni, per i cosiddetti impresentabili, rinviata la pubblicazione dei nomi. In Sicilia inchiesta su una compravendita di voti nel 2012. Decine di morti in un'alluvione in Texas e il fiume Blanco è salito di 9 metri in mezz'ora, vittime anche nel confinante Messico. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In questi minuti, come si diceva già nei titoli, viene presentato il piano europeo sulla gestione dell'emergenza profughi e dalle prime notizie che stanno arrivando sembra che non sia particolarmente soddisfacente per l'Italia. Italia, Valeria De Rosa per un punto. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Allora, diciamo che quello che emerge conferma in gran parte quanto già emerso nei giorni scorsi. È ancora in corso la presentazione di questo piano, che è un piano parziale, questo è quanto ha specificato il commissario Avramopoulos. Lo sentiamo. Well, as promised 2 weeks ago, we're here today again. And the commission Avramopoulos ha appunto specificato che si tratta di un piano parziale per il momento, sono 6 punti, il primo dei quali, che è quello più controverso, è la proposta legislativa per la ridistribuzione o ricollocazione, così l'ha definita il commissario, una formula che ha preso il posto delle quote come chiesto e ottenuto dal presidente francese François Hollande, e come il commissario ha poi tenuto a specificare che mai in commissione si era parlato di quote. Riguarda 40.000 persone, 24.000 dall'Italia, 16.000 dalla Grecia, che ricordiamo negli ultimi giorni è stata teatro di moltissimi sbarchi, solo 1.200 nelle ultime 24 ore. Si tratta della ridistribuzione di richiedenti asilo e non immigrati irregolari. Anche su questo punto il commissario ha tenuto a fare la precisazione, perché si sono generate delle incomprensioni. Questo è quanto ha sottolineato il commissario, specificando che comunque tutti i paesi sono interessati da questo piano, anche se già sappiamo che Gran Bretagna e Danimarca, che godono di clausole di eccezione, hanno fatto sapere di non voler partecipare. Tra l'altro, in indiscrezioni di stampa dicono che anche Ungheria, Slovacchia e Bulgaria non intendono partecipare a questo piano di redistribuzione. I criteri restano quelli già individuati, la redistribuzione avverrà sul criterio della popolazione, del PIL, del numero dei richiedenti asilo e di rifugiati reinsediati per milioni di abitanti e tasso di disoccupazione nel 2014. Come già dicevi e come già si specificava, riguarderà soprattutto eritrei e siriani e per quel che riguarda l'Italia, il nodo fondamentale è che l'Italia, così come la Grecia, dovrà adempiere ad alcuni obblighi fondamentali, cioè dovrà redigere una roadmap che verterà sull'accoglienza, sul diritto di asilo e appunto anche in questo caso sulla redistribuzione. Qualora l'Italia non ottemperasse a questi obblighi, l'Europa potrebbe fermare il piano di redistribuzione. Quindi questo è un nodo fondamentale per il nostro paese. Il piano poi riguarda anche la lotta ai trafficanti, il nuovo piano operativo per Frontex e anche la raccolta delle impronte digitali, anche questo un nodo fondamentale per quel che riguarda l'arrivo. E grazie a Valeria De Rosa per questi aggiornamenti, altri ve ne daremo nel corso di Europa 24 subito dopo il giornale radio delle 14. Passiamo all'altra notizia importante di giornata, ossia la raffica di arresti, abbiamo detto erroneamente nei titoli, all'interno del comitato esecutivo della FIFA, no, in realtà è tra i dirigenti della FIFA, tra gli arrestati c'è anche un vicepresidente, si indaga per corruzione, un'inchiesta che arriva dagli Stati Uniti, il punto sulla cronaca con Giovanni Capuano. Eccomi Simone, sono 47 capi d'accusa, 14 imputati capi d'accusa che vanno dalla corruzione, traffici illeciti, frode, riciclaggio di denaro, associazione per delinquere per frodi telematiche, insomma un'inchiesta che prende di mira gli ultimi 24 anni di governo della FIFA e nel quale, scrivono gli investigatori americani, ci sono almeno due generazioni di dirigenti che hanno approfittato della propria posizione per arricchirsi attraverso episodi di corruzione, episodi che hanno portato al pagamento, secondo l'FBI, di tangenti per oltre 100 milioni di dollari. Questa mattina è scattato il blitz a Zurigo, al Bauer Lack Hotel, che ospita tutti i membri dell'esecutivo della FIFA per il congresso che venerdì dovrebbe portare alla rielezione, alla quinta rielezione di Blatter a presidente. Un'operazione richiesta dall'FBI e portata avanti dalla polizia cantonale, che ha arrestato 6 o 7 persone a Zurigo. In realtà il comunicato del Dipartimento di Giustizia dell'FBI parla di 7 arresti, ci sono nomi grandissimi, ci sono 2 vicepresidenti del comitato esecutivo della FIFA come Jeffrey Webb delle Cayman e Eugenio Figueredo che viene dall'Uruguay. E poi ci sono altri componenti dello stesso comitato esecutivo, c'è il nome di Jack Warner, che è un ex vicepresidente della FIFA ed ex numero uno della CONCACAF. Tangenti per cosa? Secondo l'FBI, per oltre un ventennio i dirigenti si sono fatti pagare per facilitare l'acquisizione di diritti TV, di accordi di commercializzazione, di sponsorizzazione di eventi calcistici negli Stati Uniti e nel Sud America. Operazioni che, è scritto nel comunicato del procuratore generale Loretta Lynch, testimoniano una corruzione sistemica devastante e radicata profondamente sia negli Stati Uniti che altrove. Per dare un senso al perché l'FBI si sia mossa, viene anche riportato che tutta questa parte, quella dei diritti TV, ad esempio, assicura il 70% dei ricavi della FIFA, che sono ricavi da circa 6 miliardi di euro all'anno. La giustizia elvetica, ed è notizia proprio di pochi minuti fa, avrebbe poi aperto un'ulteriore inchiesta sull'assegnazione dei mondiali 2018-2022 in Russia e Qatar, che sono poi la pietra dello scandalo degli ultimi mesi all'interno della FIFA, ma che non sono nominati in questa inchiesta. Ora ci sarebbe la giustizia elvetica che sta indagando e che avrebbe bloccato tutti i conti della FIFA relativi a questa parte di indagine. Ti posso anche dire che nella tarda mattinata c'è stata una conferenza stampa del portavoce della FIFA, che ha detto in sostanza: Blatter non è coinvolto ed è sereno, al momento non è coinvolto, la FIFA ha collaborato e continuerà a farlo, è l'occasione per fare pulizia al proprio interno, non ci sarà nessun cambio di programma per i mondiali del 2018 e 2022 e soprattutto non ci sarà nessun cambio di programma per il congresso che va avanti e venerdì, come detto, ci dovrà essere il voto. Ora è del tutto evidente che se anche il presidente Sepp Blatter non è al momento coinvolto nell'inchiesta, così viene anche confermato dalle fonti americane, è un po' tutto il sistema di governo della FIFA che viene messo sotto accusa e che sta crollando, e quindi bisogna vedere che cosa accadrà nelle prossime 48 ore. Al voto ci arriva Blatter, 79 anni, che cerca il quinto mandato, ha un solo avversario, Alim Bin Al Hussein, principe giordano, vicepresidente della Confederazione Asiatica. Tutti gli altri, ultimo l'ex calciatore portoghese Luis Figo, si sono ritirati nelle scorse settimane. Grazie a Giovanni Capuano per questi aggiornamenti, l'analisi di Dario Ricci. A pensare al ventennio del governo del calcio mondiale che l'FBI ha deciso di passare al setaccio con la clamorosa operazione di Zurigo, vengono alla mente subito due date. 2022, anno del primo campionato del mondo ospitato dal Qatar, e 2002, l'anno del mondiale nippo-coreano, quello in cui la Corea del Sud chiuse con un estemporaneo e sorprendente quarto posto, a dir poco agevolato dal fischietto di un certo Byron Moreno nella sfida contro gli azzurri. Sono forse questi i due azzardi più estremi del sistema disegnato da Joseph Blatter, insieme al terzo. Guardate i paesi di provenienza di molti tra gli arrestati: Cayman, Trinidad e Tobago, Costa Rica, periferie del calcio o potentati locali esaltati in ruoli chiave della FIFA di oggi, a scapito dei grandi paesi europei e in cambio di voti sicuri per lo zar Blatter, non a caso perfettamente a suo agio a fianco di quel Putin, padrone di casa dei mondiali di Russia 2018. Ecco, in attesa che l'inchiesta faccia il suo corso, sono queste le distorsioni cui la FIFA dovrà presto e comunque porre riparo, ancora sotto la guida di Blatter o di chi per lui. E come avete sentito, torna al centro dell'attenzione la figura di Joseph Blatter, il ritratto. Eppure esiste e resiste alla faccia di qualsiasi critica o di qualsiasi accusa di corruzione e di compiacenza. Joseph Blatter, 79 anni, presidente della FIFA, è uno di quei grandi misteri della vita a cui anche la scienza non sa dare risposte. Perché uno dei più recidivi gaffeur della storia mantiene un potere quasi assoluto? A fronte di alcune riforme sulla rapidità del gioco e sulla valorizzazione dello spettacolo, Blatter una ne fa e cento ne pensa. Un talento assoluto nel dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. Scivola sul razzismo e sulle donne. In Brasile dice che il calcio è molto più importante della insoddisfazione delle persone. Infine, dopo 11 secondi, interrompe il minuto di silenzio per Mandela. Blatter è un dinosauro fuori epoca, come dimostra la sua insofferenza a introdurre qualsiasi tecnologia vagamente futuristica. Conservatore nelle regole, ma spregiudicato nell'assegnare i mondiali nel Qatar in piena estate, quando si scioglie anche l'asfalto. O è un genio o è un folle, quindi, giustamente, dittatore assoluto del calcio. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere questo capitolo, una risposta all'ascoltatore che dice: dilettanti, si parla di soli $100,000. In realtà ha sentito male, perché la cifra della quale si sta parlando in questo caso, in questa indagine, sono $100 milioni, che ovviamente è ben diverso. Passiamo all'economia e passiamo ai dati diffusi dall'OCSE questa mattina, ce li racconta Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, ed è un quadro decisamente negativo per il nostro paese, quello tratteggiato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il focus è puntato sui giovani e sul loro tasso di occupazione. L'Italia rimedia allora uno striminzito penultimo posto tra i paesi OCSE, precedendo in questa classifica solo la Grecia. Il tasso di occupazione dei giovani tra 15 e 29 anni è sceso infatti di quasi 12 punti percentuali tra il 2007 e il 2013, passando dal 64 al 52,8%. In pratica lavora solo un giovane su due. Altro elemento indicativo quello relativo agli under 30 non occupati né iscritti a scuola o in apprendistato. Questi nel nostro paese sono il 26%, quarto dato più elevato tra i paesi OCSE. All'inizio della crisi nel 2008 erano il 19%, quasi 7 punti percentuali in meno. Analizzando quindi le competenze dei giovani che un posto ce l'hanno, i dati dell'OCSE evidenziano come il 31,5% svolga un lavoro di routine che non richiede l'utilizzo di competenze specifiche, il 15% un'occupazione che comporta uno scarso apprendimento legato al lavoro. Il nostro paese è in particolare quello con la più elevata percentuale di giovani tra i 16 e i 29 anni che non hanno alcuna esperienza nell'uso del computer sul posto di lavoro. Italia ultima anche per competenze di lettura e matematica. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, ancora l'economia con il collocamento di questa mattina del Tesoro di tutti i 6 miliardi di euro di bota a 6 mesi, con un tasso che però ritorna poco sopra lo 0, a 0,004%. La domanda è stata buona. In giornata i mercati oggi sono positivi, un più 0,95% sul FTSE MIB. Torneremo a parlarne come sempre alle 13.30. Per restare sull'economia, i dati diffusi questa mattina da Confcommercio: la congestione del traffico costa all'Italia 11 miliardi all'anno, dice il presidente Carlo Sangalli in un convegno intitolato Italia disconnessa sul sistema dei trasporti. Sentiamo la sua voce. Secondo il nostro ufficio studi, una riduzione del 10% nei tempi e nei costi del trasporto determinerebbe un aumento del PIL di 7 decimi di punto. E di questo torneremo a parlare tra poco nella nostra rubrica del mercoledì sull'autotrasporto. Intanto andiamo a fare un punto sulla campagna elettorale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Polemiche e attacchi sulla mancata rivelazione dei nomi degli impresentabili da parte della commissione antimafia. Sarebbero 13 tutti i campani, i nomi ancora nascosti di aspiranti consiglieri, mentre 4, 3 del centrodestra e 1 del centrosinistra in Puglia già si conoscono. Il Movimento 5 Stelle attacca il PD e si chiede chi ci guadagna tenere i nomi nascosti fino a venerdì. Risponde il premier Matteo Renzi: sento parlare di impresentabili, ma sulla legalità non prendiamo lezioni da nessuno. Questo PD è legalità, è il partito che ha fatto la legge anticorruzione, che ha rimesso il falso in bilancio, che ha approvato la legge sui reati ambientali e lancia le tre L: legalità, lavoro, leggerezza. Intanto Silvio Berlusconi invece continua a rilanciare il progetto dei moderati. Assolutamente aperto alla Lega, dice l'ex cavaliere, mentre preferisce non rispondere ad Angelino Severino Alfano, che ricordiamo ieri il leader del nuovo centrodestra ha criticato l'essere tornato a Forza Italia da parte di Berlusconi come un passo indietro per l'unione dei conservatori. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti e tra poco torneremo sulla politica, perché la scadenza per la presentazione delle liste per le elezioni regionali e comunali era all'inizio di maggio, eppure la commissione antimafia discute degli impresentabili solamente adesso, praticamente a 2 giorni dalle elezioni. Ne parliamo col vicepresidente della commissione antimafia dopo il traffico. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Lo scandalo corruzione scuote la FIFA, raffica di arresti nella dirigenza del governo del calcio mondiale, Blatter è indagato ma dice non sono tenuto a lasciare l'incarico. Il piano sull'immigrazione europeo riguarderà solo i profughi arrivati dopo il 15 di aprile, per il momento non si parla di quote. I dati dell'OCSE sull'occupazione giovanile, Italia penultima, i giovani che non studiano né lavorano sono più di un quarto degli under 30. Caos sulle liste per le elezioni, per i cosiddetti impresentabili, rinviata la pubblicazione dei nomi. In Sicilia è intanto inchiesta su una compravendita di voti nel 2012. Claudio Fava, vicepresidente della Commissione Antimafia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Anzi, bentornato ai nostri microfoni. Mi spiega una cosa, le liste dovevano essere presentate entro il 2 maggio e così è stato in tutta Italia. Come mai la Commissione Antimafia arriva solo oggi, probabilmente venerdì, addirittura la vigilia del voto, a dare le sue informazioni sulla lista dei cosiddetti impresentabili? Ma perché le liste arrivano alle prefetture, dalle prefetture le liste sono state richiamate alla Commissione Antimafia. Noi dobbiamo trasmettere alla Procura Nazionale Antimafia, che è l'unica che possiede un terminale capace di collegarsi con le Procure della Repubblica di tutta Italia, i risultati che ci fornisce la Procura Nazionale sui carichi pendenti hanno poi incrociati una seconda volta con tribunali, procure, corti d'appello e cassazioni, perché una persona rinviata a giudizio un anno fa può essere stata nel frattempo assolta. Sì. Tutto questo prevede un lavoro lento e attento, perché sì, sarebbe grave non dare il nome di una persona che non doveva essere presentata, sarebbe gravissimo dare il nome di una persona che nel frattempo è stata assolta. E cosa che sarebbe molto più rapida in un paese con un sistema informatico decente, ma questo lo diciamo noi. Fava, il fatto che questi nomi alla fin fine siano filtrati ai giornali, perché sui giornali li troviamo, quando voi avete deciso di rinviare la pubblicazione, come lo giudica e qual è stata la manina che li ha diffusi? No, cioè, non mi tresci dentro questi gossip. Beh, i nomi sarebbero stati, alcuni nomi, quelli sui quali era già stata espletata tutta l'istruttoria e la verifica, sarebbero stati dati domani sera all'ufficio, alla fine all'ufficio di presidenza. Qualcuno ha ritenuto di dovere anticipare i tempi, forse per farsi bello a qualche suo amico giornalista, e dare questi nomi un paio d'ore prima. Nulla di grave sul piano della sostanza, perché quei nomi sarebbero stati comunque indicati alla stampa in un comunicato alla fine della seduta. Non è stato certo un gesto di grande attenzione nei confronti dei colleghi farli arrivare prima, ma mi sembra, diciamo, un problema marginale. È un problema marginale. Sostanziale è che questa analisi ci confermerà che diverse persone, non sappiamo adesso quante esattamente, sono state candidate, pur rientrando in quegli elementi ostativi che i partiti tutti e tutti all'unanimità avevano sottoscritto. E mi sembra che dalla Sicilia arrivino notizie che fanno eco in senso significativo, cioè stiamo parlando di una corruttela complessiva della qualità della politica e del rapporto tra la politica e ambienti malavitosi, che non passa soltanto attraverso le violazioni del codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione Antimafia, ma attraverso anche una brutale compravendita di voti, come ci conferma la Procura della Repubblica di Palermo. Come quello che stiamo vedendo adesso in Sicilia, ovviamente con l'ovvio garantismo, nel senso che vedremo che cosa succederà. Per il momento ci sono solamente gli arresti e vedremo quando andremo a processo che cosa succederà. Senta Fava, ma che dovrebbero fare questi una volta che entrano nella lista, per così dire, che voi diffondete venerdì? I loro partiti, i segretari dei loro partiti o i presidenti a cui quelle liste civiche erano collegate, avrebbe dovuto controllare prima e pretendere dopo che questi candidati non fossero tali, non fossero candidati. Adesso l'unico punto di decenza che rimane per i candidati è quello di fare un passo indietro per i candidati alla presidenza che vengono appoggiati da quelle candidature, da quelle liste, pretendere loro che facciano un passo indietro e comunque invitare a non votare. Ci sembra, cioè, non c'è un meccanismo sanzionatorio perché non è previsto dalla norma di legge. Secondo lei ci vorrebbe un meccanismo sanzionatorio per cui... un meccanismo sanzionatorio con la Severino. I partiti, per il tramite della Commissione Antimafia, accettando la proposta della Commissione Antimafia, hanno deciso di alzare la soglia della, diciamo, dell'attenzione e della tolleranza, per cui non necessariamente una condanna, ma anche un rinvio a giudizio per reati particolarmente gravi era considerata condizione ostativa. Ultima domanda, abbiamo... quindi, mi scusi, non ho capito, quindi il problema è che non c'è stato un controllo preventivo in sostanza, cioè i partiti, i movimenti, le liste collegate dovevano inviare a voi Devono controllare loro, i partiti questo, come dire, questa responsabilità e questa autonomia ce l'hanno. E l'autonomia è anche il segno della responsabilità. I partiti hanno accettato tutti insieme questo codice autorizzazione, si sono impegnati a non candidare chi fosse stato semplicemente rinviato a giudizio per reati di mafia o reati spia considerati particolarmente gravi, reati contro la pubblica amministrazione. Benissimo. Allora, io segretario di un partito, io presidente, candidato alla presidenza di una regione, pretendo di sapere se qualcuno dei miei candidati è in queste condizioni. Se lo è, chiederò che non si candidi, cosa che in alcuni casi non è avvenuta. Sì, il problema è che si sono impegnati i partiti e, come vediamo, spesso il problema arriva... messo controllo. Esatto, sì, però come vediamo spesso il problema arriva dalle liste collegate che non sono direttamente il partito. Ma, no? Ma il codice di autoregolamentazione prevede un impegno dei partiti a non candidare, a non sostenere anche in liste collegate. Come dire, io candidato presidente ho il dovere di garantirmi e di garantire che tutti coloro che mi sostengono, e io segretario di un partito che ho firmato questo codice, ho il dovere di garantire che le liste a me collegate al sostegno con quel presidente non contengano soggetti, come dire, compromessi in percorsi giudiziari per reati particolarmente gravi. La ringrazio, aspettiamo la lista dunque per venerdì. Claudio Fava, vicepresidente della Commissione Antimafia, su questo tema dei cosiddetti impresentabili. Beh, già si accennava al caso della Sicilia e all'indagine di questa mattina il servizio. Trema Palazzo dei Normanni a Palermo, ci sono anche 3 deputati regionali siciliani, 2 dei quali ancora in carica, tra i 5 destinatari di misure cautelari coinvolti nell'inchiesta della Procura per voto di scambio alle elezioni regionali e alle comunali del 2012. Ai domiciliari sono finiti il presidente della Commissione Bilancio dell'ARS, Nino Dina, dell'UDC, e Roberto Clemente, esponente di Cantiere Popolare PID. A loro si aggiunge l'ex deputato Franco Mineo, che un anno fa è stato condannato a 8 anni e 2 mesi per peculato e per intestazione fittizia di beni aggravata dall'avere favorito Cosa Nostra. Ma l'inchiesta ha coinvolto anche Giuseppe Bevilacqua, che nel 2012 tentò la corsa al comune di Palermo, non venendo però eletto per un soffio. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi, nasce da un'indagine di mafia condotta dalla Guardia di Finanza. Sì, sì, Bevilacqua è il detentore del pacchetto di voti mafiosi, è Bevilacqua. Il fulcro di tutto. E non nasconde, come dire, la natura di questi voti, la provenienza di questi voti. Nino Dina e Roberto Clemente saranno sospesi fino a quando rimarranno sottoposti alla misura interdittiva. In base alla legge, durante la sospensione percepiranno comunque una parte dell'indennità parlamentare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ne abbiamo già parlato ieri, ne ha parlato anche questa mattina Alessandro Milan in 24 Mattino, la sentenza arrivata al Tribunale di Milano contro Uber, in particolare contro Uber Pop, il servizio che consente a qualsiasi utente, a qualsiasi automobilista di fatto di fare il tassista tramite un'app. Il Tribunale di Milano, come sapete, ha bloccato questo servizio su tutto il territorio italiano, ma il problema non si ferma qua e non riguarda solo questa azienda. L'analisi di Maria Luisa Pezzali. Concorrenza sleale, così ha deciso il Tribunale di Milano. Non è la prima volta per Uber che in altri paesi si trova ad affrontare la stessa battaglia legale. Il punto però non è questo. Da qualunque delle due parti si stia, una cosa è certa: non ha senso combattere una battaglia sul nuovo con armi vecchie. Uber è una delle realtà simbolo della sharing economy, l'economia della condivisione che sostituisce il possesso con l'accesso ai beni, che disintermedia tutta una serie di servizi. L'altra realtà simbolo della sharing economy è Airbnb, il portale leader nel mondo per la condivisione e la prenotazione di alloggi. È valutata a 10 miliardi di dollari, più della storica catena alberghiera Intercontinental. Secondo gli analisti, rappresenterà per il turismo dei prossimi anni una rivoluzione analoga a quella degli Holiday Inn negli anni 50-60. L'Italia è al terzo posto per numero di alloggi disponibili su Airbnb. Concorrenza sleale per l'industria alberghiera? C'è chi lo sostiene, certo. Ma intanto Airbnb è partner ufficiale delle Olimpiadi di Rio 2016. E poi c'è il fenomeno home restaurant, con piattaforme come Gnamo, Eatwit, con i ristoratori sul piede di guerra. Ma ci sono anche i MOOC, i corsi universitari online, offerti anche dalle più importanti università del mondo. Perché? Perché la domanda sta cambiando e l'offerta deve adeguarsi. Recentemente sono andata a una cena di gala. L'abito l'ho affittato su una delle tante piattaforme disponibili. Ho risparmiato e quei soldi li posso usare per comprare altro. Non è decrescita, è crescita diversa dai vecchi modelli. Presto o tardi tutte le aziende saranno interessate da questa rivoluzione, lo sostengono grandi economisti come Jeremy Rifkin. Parliamone, chiediamo alle istituzioni regole nuove, ma non fermiamo l'innovazione a colpi di sentenze. La magistratura non può colmare i vuoti legislativi, è un errore che, ahi noi, abbiamo fatto tante altre volte. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo. Tra gli altri argomenti che tratteremo, una strana vicenda che arriva da Olbia, dove si doveva perfezionare l'acquisto di un'ex struttura del San Raffaele, poi fallito, quello di Don Verzé, e non è stata perfezionata, doveva essere venduta al Qatar, non è stata perfezionata perché c'è di mezzo una sorta di truffa denunciata dal sindaco, col quale parleremo tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Lo scandalo corruzione scuote la FIFA, raffica di arresti tra dirigenti ed esponenti del governo del calcio mondiale, in manette anche due vicepresidenti. Il piano sull'immigrazione europeo riguarderà solo i profughi arrivati dopo il 15 di aprile. Il commissario europeo dice: non proponiamo quote. I dati dell'OCSE sull'occupazione giovanile, Italia penultima. Caos sulle liste per le elezioni per i cosiddetti impresentabili. Rinviata venerdì la pubblicazione dei nomi. La borsa. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed ecco la vicenda della quale vi parlavamo poco fa. Per la giornata di domani a Olbia era atteso, e non so se sia ancora atteso, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi per l'ufficializzazione della vendita dell'ex San Raffaele, che è la creatura di Don Verzé, sappiamo la fine che ha fatto il San Raffaele, al Qatar. È successo che ieri questa vendita è stata sostanzialmente bloccata da un presunto imprenditore che adesso si è volatilizzato. Vogliamo chiedere qualche chiarimento al sindaco di Olbia, che torna da noi, Gianni Giovannelli. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti. Che cosa è successo? Ma è successo che ieri è stato fissato l'atto pubblico di trasferimento della proprietà a Cagliari e invece si è materializzata questa operazione portata avanti da questo sedicente imprenditore, che avrebbe acquisito titoli che dovranno eventualmente essere riconosciuti da una causa di usucapione, e insomma nel momento in cui il notaio ha citato la trascrizione di questo documento, è chiaro che la firma dell'atto è stata sospesa. A quel punto io mi sono rivolto alla Procura della Repubblica, il procuratore della Repubblica, dottor Fabrizio Ordalisi, si è attivato immediatamente, ha disposto tutte le indagini. Questa notte scorsa con la Guardia di finanza sono andati a perquisire l'abitazione e a interrogare questa persona che è scomparsa. È scomparso, è scappato. Ricordo, scusi un attimo, ricordo agli ascoltatori cos'è l'usucapione. Nel momento nel quale si esercita un possesso sul bene per un determinato numero di anni, per un determinato periodo di tempo, se ne può richiedere la proprietà, e di questo si tratta. E questo tale, questo tale non è nemmeno questo il caso. Sì. Poi nella sostanza i terreni sono ora di proprietà dei curatori fallimentari che sono subentrati, per cui del Tribunale di Milano e delle banche che avevano finanziato la vecchia operazione, per cui è solo un'operazione strumentale che verrà smontata nelle prossime ore. Ma mi dica, Giovannelli, a questo punto è tutto fermo o si può firmare con il Qatar per la vendita del San Raffaele? Ma per noi fatta chiarezza rispetto a questa situazione, e ripeto, il grande lavoro lo sta portando avanti il Procuratore della Repubblica, credo che l'operazione sia superabile, per cui l'incontro di domani con Renzi è confermato, e io auspico che nelle prossime ore o massimo nei prossimi giorni si possa procedere alla definizione. L'accordo tra le parti, cioè Qatar, banche, pool di banche e procedura è già stato formalizzato, e di conseguenza non c'è da discutere. Che dimensione ha l'accordo, Giovannelli? Ci ricorda la cifra? Ma guardi, sono circa 35-40 milioni di euro complessivamente tra l'immobile e le aree circostanti. Stiamo parlando di oltre 59 ettari di terreno, tra l'altro in una zona come quella, che non è poco. La ringrazio, grazie a Gianni Giovannelli, sindaco di Olbia, e noi torniamo adesso sulla vicenda delle parole del segretario di Stato Vaticano Parolin dopo il sì irlandese alle nozze gay. Oggi il Papa ha parlato di matrimonio tradizionale, del fidanzamento che lo precede, nel corso dell'udienza dedicata ai temi del prossimo sino. Il servizio. Il sinodo ordinario dei vescovi dovrà tirare le fila dei temi dibattuti in quello straordinario, e su di esso pesano le questioni rimaste irrisolte: divorziati, risposati ed unioni civili anche per i gay. Se per il primo aspetto sembra delinearsi una strada che potrebbe portare alla soluzione pastorale, valutando caso per caso, di un percorso penitenziale, per la questione delle coppie di fatto, specialmente omosessuali, la soluzione sembra difficile. Non parla spesso il segretario di Stato Vaticano Parolin, e dunque il suo intervento di ieri sul voto irlandese non è di certo casuale. Dire che la Chiesa deve tener conto di questa realtà, ha detto Parolin riprendendo le parole dell'arcivescovo di Dublino, vuol dire che deve rafforzare il suo impegno e lo sforzo per evangelizzare. Un conto è l'accoglienza per i gay, che favorisce anche la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, un conto l'equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli tradizionali, dunque. Una linea ribadita anche dal presidente della CEI Bagnasco e a suo modo dal cardinale Casper, riferimento dell'ala riformista. Non posso immaginare, ha detto, un cambiamento fondamentale nella posizione della Chiesa, ma dobbiamo trovare un nuovo linguaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una serie di appuntamenti, il traffico, poi la nostra rubrica sull'autotrasporto, America 24 di Mario Platero, ci ritroviamo subito dopo.